come rifiuti, non è così. Esatto, quello della Ferrari l'ho già ordinato il telecomando, e costa 59 euro. Scappa, qui ci vogliono tre telecomandi. Papà. E allora qui ci sono due gomme, eccetera, eccetera, ce ne sono difficili in quella macchina. Quella è, mi che è ancora più grande, perché già con il ferro mi sembra che sono intorno ai 40 centimetri. Quella lì sinistra dovrebbe essere intorno ai 50 centimetri. No, ma amico mio ha fatto quella, come si chiama, la cross, quella tipo Dumbaghi, la già fatta, gigante, e cambia un bel futuro. Ci sono macchine che fanno oltre 90 km all'ora, a quello che dice il corso, eh? Sì, sì, tranquillamente, se ti prendono i piedi te li tagliano, secondo come ti trova. Cioè con i sandali, se ti guida macchina ti vede Italia, ti fa male. Beh, quello sì. Sono con la Italia, ma il segno già te lo lascia. Beh, cappa. Cappa, cappa. E adesso vediamo, là. La BMW vuole anche tagliata, eh. È vero, vuole anche tagliata, perché c'ha bisogno di tagliare il pezzo del... parafagli, bisogna ritagliare il coso del paraurti, perché è fatta in modo che se me la devo tagliare io, con la taglierina o con la formicina. Ma che viene come? Una macchina sportiva o una macchina stradale? Diciamo che sportiva e stradale. Se ne corrono in pista, tipo quelle? Tipo quelle che corrono in pista, sì, è la M3. Oh, c'ha poche possibilità rispetto agli altri. Vieni Mario. Bueno, c'è un po' di dubbio, però sotto qualche macchina camminando. Beh, c'è la cicca. Beh, chicca dell'Italia, non posso sicuro che non vada a finire fuori, perché se poi non funziona bene il telecomando, te la rompi. Thank you. purtroppo c'è solo lui. Vabbè, no, deciso che quale minimoto le conosci, Luca? Quale minimoto? Quale minimoto? Quale piccole piccole vanno capito insieme? Una di quelle minimoto la paghi 250 euro col motore a scoppio, una 40 di cilindrata che fa, mi pare, 7 cavalli, fa roba di 100 km orari, l'ho vista, c'era un che conosco io, ma non c'era su camminare, se continui con le costano 250 euro, e tu una delle tue macchine che hai in plastica mi paghi 700-800 euro. Ho voluto provare il 1000, Molto veloce, però non mi cosa ci aggiungo? No, ma fanno le gare, i figli fanno i campionati italiani, li conosco molto bene perché siamo amici, ma sono matti dalle gare quelli. Quelli che sono città, se vanno giù ma fuori lui, io battere Roma a te, non mi ho nulla. Sai che non li una parte, se la vuoi con cuore di Dio. No, non basta, sono tutti facciati, alza il quadrato, prendere le macchine in coma davanti a tutti, due corsi, una dietro l'altra. Lavoravo mio cugino. Sto parlando con la BMW quando era fianco a me, mi sto dicendo. Se lavorava con mio cugino, magari l'hai conosciuto pure, Stefano. Un po' d'arte, ecco, non sono presente. Sicuramente il di nome non mi dice niente però. Stefano solo quello, mi gli mancavano un po' quei capelli in testa. Perché quando si metteva sotto le macchine, sotto il ponte, quando non scendeva lui, deve essere che era allergico, e ha perso un po' di capelli in testa. Gli ha sotto i capelli, un po' d'arte sicuramente non lo conosco. Vabbè, non piccolo piccolo, ma già me ne ricordo bene. Quando le fa veramente belle, magari non segue la moda come la Honda che quella ogni 3 mesi se ne fa una nuova. Grazie. sbagliato, siamo molto amici, ma veramente amici anche con tutta la famiglia. Ma cosa ce l'hanno con la vespetta rossa, Gianni? Io ce l'ho, ce l'ho con il mio cognato. Ma la vespetta rossa sciocchi? Rossa, non rossa. Ma rosa sciocchi, che era la prima vespetta che aveva preparato Maurizio. C'hanno una lambretta da record per fare le gare con Mariani, che l'ha fatta vedere la bocca allucinante. Perché aveva pure la vespa, la prima volta che aveva preparato, e poco camminava. Mi camminava più di tutti, comunque detto da loro era la lambretta, 175, però non va nulla di lambretta, messa in moto a spinto, una cosa allucinante. E facevano le gare con Mario Mariani, la conosci? Mariani correva con la vespa e loro correvano con la lambretta. Sono andati in parità, l'andata ha vinto uno e adesso non ha vinto l'altro. Da Mario Mariani è un signor meccanico, un po' disordinato ma è un grande meccanico. Parliamo di moto, non molto moderne con centraline e cose varie, molto antiche diciamo. Se non ricordi quando c'era Mariani al quadrato? KK, il motore mio, il Mondial, l'ha fatto lui, me l'ha messo tutto in ordine lui. Siamo molto amici con Mario. Adesso siamo un progetto che non ci vediamo, però sacco di roba mi ha aiutato lui, io l'ho fatto a favore, l'ho fatto anche io, ci conosciamo, almeno lui da bambino lo conosco. Diciamo che a me Come la Robbiosa, anche il mio è un bravo meccanico, è ancora un bravo meccanico, solo il momento che lui Topolino, lui c'ha una Labenelli. Quello già non mi possono mai fare. Vabbè, facciamo girare, Gianni. come faccio con te? Non lo so, comunque a occhio è diminuito, sono col portatile, però mi sembra più basso. Ascolta, la radio va bene, sì, me l'ascolti tranquillamente. L'ascolto tranquillamente, però poco fa forse è più pulito, meno fruscio a vedere. Meno fruscio? Dopo ricordare me sotto, sai, comunque arrivi benissimo, dai, però prima eri limpido. Lo fa qua il diporo. Di solito la differenza è molto più forte l'antenna. Domenica, sabato, adesso vediamo se il tempo ci assiste, sono già con le Un gioiello, un orologio era. tipo della motorizzazione, ma c'è un attimino qua. Tra l'altro mi chiamato di qui. Guarda, era veramente un esame femminile, tutta nuova, tutta, io di tutta, era fiammante. Erano di qui, ma quando questa gente era messo questo prodotto, era contro i numeri. Mi dispiace, ma se non puoi dire una cosa rubata, venga con lui, venga. E ho preso quella rinuncia, non è che tanto ne avevo dato. Però mi ha fatto anche lo scritto, sono chi è, tutto. Non gli avevo fatto niente, noi avevamo messo 1,5 milioni di multa, e mi hanno dato l'esitazione. Sì, bella è culata. Torniamo a fidarci. Questo tipo ha dato la mia moto per un gramo di cocaina, perché non si è appunto sul cellulare. La mia moto, l'SP, questo mi chiama di autosco dipendente. Thank you. ti mangi, ci avete le bici, non lo sapere, io ti do il telefono. Ma va bene, ma non è quello del taxi, è un'altra persona questo. Ma come si può fare? Ma che è quello della Sicilia, perché anche quello del taxi è della Sicilia, non è così? Thank you. perché io c'è tutto, lo Smith è grandissimo, no? Tipo quello più grande di quello del 440, e quanto è quello del 940, più o meno, capito? Però è un'apparecchiatura che io solo, usano solo gli amatori, anche la 27, anche la 27 c'è tutto, c'è proprio scritto, c'è la parte che è scritto CB, capito? E guarda, praticamente la 26 è 800 a 30, quindi è quasi una sintonia continua, non è una radio da buttare via. Quelli sono sempre classici e non passa mai di moda. Non è opportunitario perché Luca ce l'ha visto, ti cavi che ci sono, non mi arrivano le antenne, quindi lì c'è il dipolo col commutatore eccetera. Se riesco ad allungare il cavo da 27 e attaccarlo e fare delle prove, te lo faccio sentire. Ero da 250, ora ti costano più 3, la mia costano più 3 Luca, quello grigio. Sì, l'ho visto. Ecco, quello lì l'ho preso, capito? Il più 3 va bene con quello, perché l'attacco è a 4. C'era dietro l'attacco, hai visto che non ce l'ha davanti, non si vede il microfono, ce l'ha attaccato dietro. Infatti ti ho chiesto se tra come te non si ricordi. Sì, perché c'è un attacco dietro, capito? Come la linea Drake, la stessa cosa. Alberto. Ah, ex, cos'è? Ex morto? un 4,40 e voi non è che ce l'abbiamo 4,40, non ho mai guarda, di meno ho un 5,60 e anche il prezzo è nuovo al 5,60, solo che è nuovo caro. E lui è 26, non è proprio indicato, è un po' diverso, di 4,40, ecco, dalle caratteristiche del 4,40. Ma glielo ho detto, ho trovato io il numero. Aspetta, ora fare mondiale, prendi dal microfono. Ah, cos'è? 85. Yeah. Un sacco di gente, capito? Sì, anche le soluzioni sono Grazie. Allora, chi è che ha scritto di gabinetto o di cosa? Di formaggio e di torrò. Yeah. mettono in tasca, a chi sono dolori, a parte Luca. Thank you. 5 fotogramma. Aspetta, non pensavo tutta questa differenza. Non credevo che fosse più bracciato così. Chi c'è rimasto di prenda? Io prendo io, attimo, e volevo dire... Io un attimo di andare a centro, non c'è più. Sì, sì, sono... Ma molto scherziamo, è brutto, molto brutto. Buonanotte, è brutto, ma che cavolo. Ciao, carissimo, buonanotte, per voci mie, bye bye. Però entrare in alta frequenza e dire di essere vero, quello per andare a ascoltare, no, non certo per andare a rompere l'anima agli altri. Allora, ascolto poco in un po' curi, però quelli che non lo sanno e vedono come sappiano che lì se c'è qualcuno deve scordare o qualcuno di quelli che guarda il campanello si ha fatti tuoi. Guarda, Mario, guarda la radio, micidiale, mi sembra di qua, non so neanche in cuffia, ho fatto il volume, mi dico, accendo, guarda, accendo, guarda la radio micidiale. Veramente, altro che la follia. L'ho usato per i media, che dov'è che mi facevano Valentino con la radio fa il CW, dovrebbe essere così come lì è. Solo che dovrebbe essere questo anche perché c'era il CW, e che è solamente il CW, quindi c'è. Anche lì, cioè, anche se non ci sono gli altri, ma sempre 27, sì. Invece ci sono le mamme proprio a cui, se hai capito, già. Ah, no, quella è la... Ah, Argo. Argo c'era pure, non lo so. Grazie a Luca, amici di nome di Luca. Tu che mi dici? No, amici di nome è Luca Ramo. Cazzo, ma l'ho praticato già. Ci sono Marrico si conosce ancora? No, l'altra volta lì io ero lì nella piazzola dove andiamo con Franco, cioè andiamo, dove ci troviamo con Franco e con gli altri, però c'è stato qualcuno che una volta Franco non c'era, non l'ha visto, hanno pigliato uno di quei gomoni piccolini che avevano la città mercati, con gli arrivi sono andati avanti e sono risaliti nelle scale, hanno nascosto un gomone attaccato al cancello, dove sono arrivati i militari che se ne sono accorti, certo fucile in mano, non c'è lui, i nemici di Napoli, non è lui, se sei lo che è il vestito. Non c'è problema. che me la tira. Solo quando c'è caldo, c'è l'estate, l'inverno non si riesce a stare lì, troppo freddo c'è. Vedo che anche a me, l'ultima volta c'era con un franco, nonostante l'abbia con la tuta guarda micidiale, vedo che anche a me da rompere. Allora gli sto brutto. L'estate a pescare, capito? Come la scambo ciò, alla cena, panini, la birra e via. Sedialina, seduto lì e via. Yeah, I don't know. Qualcosa. Ho fatto una telefonata, sei pronta? Ho Sono qua io. È la pizzeria, non è Gerona? Sì, qua sono due volte che fanno casino, lo fanno tutti, si fa lì con lì. Perché a me mi scappa la vita, ma capitando di essere conosco, perché il tuo è... Vai, sai di cintura, e avanti se tu sono cardone, ti ho il collo. Sì, stamattina l'ho fatto alle 7:30, il citofono, figurati. Forse una voleva entrare, non è nata risposta. Sono da me, sono andati dagli altri. È un casino, sto parlando quando si è diventato. Come sono da me, io la metto così. Sì, perché mi sfruttano, non riusciamo a fare un bel affitto, la fila. Una persona normale non possono fare, lui c'è con loro, sì. Sì, 350 euro di affitto al mese in Spagna, sicura. Sì, c'è un chilo, ogni a mesi. Testa. Ah, testa, la parola di casa, lo senti, eh? Quando vai a comprare la macchina della Opel, fai lì e glielo chiedi, avrai quattro chili di affitto. L'unico. Forse lì. Ai, io pensavo che avesse il caso di fare lì. Sì, 750, affittato. Ma figurati. Anche il coso, la casa del pane che è sua. Non lo sapete. No. Io non è che dico la scuola di corso perché io ho comprato le macchine e mi ha sempre trattato un bel corso più a lui e a lui. Ma la casa di Gianni, ma quella era già ricca. carico di, mi sembra sia di, se non sbaglio, di qualche paese tipo passata o qualcosa del genere, era carico di famiglia, quello c'ha terreni che non finiscono più. Era uno dei più ricchi della, come si chiama? Della provincia di Nuoro, non ricorda, della provincia di Nuoro, di Vesciule. Comunque è un paese vicino tra Oliena e Mamoia, non Mamoia, cosa c'è? Oliena, poi c'è l'altra, non mi ricordo. Vabbè, comunque è un paese provincia di Nuoro, uno dei più ricchi possessori di terra, allucinante. Hanno comprato tutto. Ma l'abito quando ci ha messo a fare la nuova, l'autoclave nuova. Tu immagini che c'hanno tutti i divisi, c'è il Salvatore, c'ha la Misa, la Honda Tini, che è quella delle gare, poi c'ha la Subaru, c'ha un sacco di marche, l'altro fratello c'ha la Peugeot e BMW, quindi due immagini. Luciano c'ha la Jaguar, c'ha la Volvo, c'ha la carità, però non c'ha, c'ha la Ford, siamo tutto noi, ma la Jaguar e la Maserati. Sì, Jaguar e Maserati, ma cosa c'è per avere una concessione di Jaguar? Cosa devi avere di fiducia bancaria? Miliardi, perché una macchina, una Jaguar costa 250.000 euro, 150.000 euro, quindi immagini di Duca, non dare una macchina di genere, cosa devi dare di garanzie? È l'unico concessionario con la Sardegna, lui si chiama Jaguar Sardegna, infatti. Infatti, Jaguar Sardegna, sento la BMW, la serie 7, costa 400 milioni, arrivo preso. Gaffa. Luciano deve mettere sicuramente il presidente Italia, perché c'è Salvatore, Luciano, Piero e Michelino. Michelino ha lavorato 30 anni in Germania, anche lui è tornato con voi quattrini, contro tutti. Noi siamo tutti la sua concessionaria, siamo tutti indipendenti, però siamo, collaborano tutti perché sono molto molto uniti, capite? Però la mente di tutte queste iniziative, di concessionarie, di contravendite, ma la mente è sempre Luciano, che è il gomo. La facciata. Questo qua sta pensando con questo puzzo, che ho visto qua, non è visto, però non è buccia di gioca. Ah, il puzzo questi della Fiat. Sì, sì, sì, Vicinio e l'altro come si chiama, Mauro, quello di Olbia, che hanno l'Alfa Romeo e la Fiat, però non è persone molto, un po' così. Ma non aveva niente a che fare, fratelli, ma se li giocano quando vogliono, non perché loro mettono plurimarche qui là, stanno facendo un'importazione parallela, poi, no, ma non è importazione parallela con me, no, non me lo vai, compri, e due giorni il libretto, tutto, voglio complementare lì, però andare a comprare una macchina in importazione parallela, è peggio di Goglio, di Mattei, capisci? Aspettare mesi e mesi prima di dare il libretto, ti rinnovano il foglio di via, e poi il CDP non arriva, e qui e là, perché c'è l'importazione parallela, non sono persone serie, capisci? È da matricolare la macchina, sono anche a matricolare con 60.000 km, mi vuoi anidarmi, c'era una bella Audi A6, l'altro ci metteva a fare la nuova bella, e c'è sì, sì, questa è da matricolare, no, ma non l'ho detto, ma scusi, come faccio la nuova se c'è 60.000 km? Ma sai, l'importazione parallela, noi dobbiamo rimatricolare, ma ah, guarda lì c'è, questa macchina usata, seconda mano, e chi sa chi è, non è nuova. Cosa vuol dire dovremmo matricolare? Dovremmo matricolare perché avremo le paghe tedesche. Vuol dire. Cosa fanno? Loro prendono tutte quelle macchine, le flotte delle macchine a noleggio e poi le rimatricolano qua come macchine a chilometri zero. E le chiamano zero due, le amerani a Dio. Quindi non sono persone serie. La serietà nell'automobile ce l'hanno solo Giunino e le fratelli di Maria Sassa, non ve ne ha. Mario, facci sognare, Mario. Ma sono umili, sono bravi. Se c'è la serietà, solo che tutto è andato male, almeno. Comunque se sono forti anche loro, là, c'è la Orbe, c'è la Sassari, a Nuoro. La musica, ma adesso non è come la sauna non c'è più niente, doveva quattro macchine, no? È tutto diverso il discorso di prima da adesso, capito? E prima le concessionarie che c'erano tante, potevi avere, adesso le garanzie ufficiali che le danno solo Ozzolino a me, perché sono persone serie, persone che sono nate da niente, capito? Ozzolino era un venditore di cose, di remonti, quindi ha iniziato da niente anche lui, sono a fortuna, ma non è che è ricco di sé, però era un venditore anche lui, quindi non è che sono tutti nati da niente, capito? Sono nati da niente. Io già ne ho detto, tu sei 23 anni, abbiamo il supermercato, siamo quasi io da compratore della frutta. La dice la stava aprendo Claudio. Sì. Sono di me. Lidl, con le voci di portatore adesso stanno aprendo, penso che aprono ogni settimana pure. Ah, LD. Lidl o Lidl, come lo chiamate, dai. Bello, quello dietro di me. Dietro, dove c'è la voce che fa noi, lì dietro. Oh, dove stai dicendo? Dietro di me l'officina. E con la duzza. Via Corraduzza, via Corraduzza, dietro il credo che rimane via Corraduzza, e tutto il giorno quello, io ho attaccato la Gonzaga, alla caserma lì, all'Ottadio, alla caserma. Ah sì, secondo me tu stai parlando con la Gonzaga, io intendevo giù il deposito, dai. grigio, lì in mezzo, occhio grigio, è quello che viene grande, chi è il padrone? Non so lì di chi è il padrone, però è una catena grossa di supermercati, c'è a Portotorres pure, uno, un bel negozio comunque, quello non so se gli faccia qualcosa a Multilendo, però qualcosina glielo può fare. Ma a Multilendo non ho problemi, Multilendo è un miliardario. Sì, però è una buona posizione, c'ha bei partiti, l'hai visto, tutto a portata di mano, la gente lo sai che prova, poi magari non è mai detto dalla Multilendo. Guarda che Multilendo ha venduto tutto 500 milioni di euro, mia, alla vita francese, quindi, grazie a lui. È un errore, perché a chi le faccia ciò lì? Ma che figli, così ci mangiare tutto. Non so se è grazie ai figli, comunque ha venduto tutto alla vita francese. L'ho saputo ieri, ho fatto un lavoro, 500 milioni di euro, ha venduto tutto, tutto. Si solo gli HV e basta, come ti faccio, non c'è altro adesso. La carne fuori ha venduto. No, lo so, comunque so che ha venduto 500 milioni di euro, tutto quello che c'è, anche quello che stavo costruendo adesso. Tutto, completo, chiave in mano in pratica, 500 milioni di euro. Tu da lui, da giù, è come se avesse fatto solo in questo per la lotta. Grazie a lui, ha 80 anni, cosa vuoi che faccia? Il figlio mio, ho fatto i magoni, cosa ne so cosa fa? Via Gracia, Via Mendola e anche su al monte, tutto, hanno venduto tutto, si tiene solo quello di Giacomo, l'angolo che fa prima, non si vende, non si tiene altro. Ha venduto Salis, ma la cosa importante è quello di Salis. Quello che vuoi, anche quello di Salis è stato fatto da poco, tutto, si è venduto tutto, 500 milioni di euro in pratica, niente lì e chiave in mano, fa tutto, deposito, terreno, fa tutto. Comunque so che ha venduto 500 milioni di euro, figurati quante, 1000 miliardi di lire sono. Sì, se ne vuole accendere lì, se ne vuole un bel. Sì, ma gli ha venduto solamente il capannone di sale lì, e quello lì sta facendo di fronte agli eletti, boh. Anche via Mendola, tutto, Ugo Multilendo ha venduto tutto. Ignazio addirittura. Ignazio Montenegro, dal fratello di Ugo, al piccolo. Anche io ho fatto come sì, abita sopra di lì Ugo qui. Sopra di casa Ugo, cioè l'ascensore dal negozio che sale sopra casa sua, c'ha due piani lui sopra. Quello Ignazio, Ugo Montenegro, c'ha la villa, vi dico io il nome. Io sono come all'inizio dei miei punti, quella di Ugo Montenegro, quella villa grande che ci vede, quella di Ugo Montenegro. Quella di Ugo Montenegro, sopra la via Cavour abita Ignazio Montenegro. No, non esiste, non sono sicuro, io sapevo così. Ecco, lo dico perché il figlio di Ignazio è amico di mia figlia, capito? Quindi non so per quello che c'è. Ugo Montenegro c'è solo via Mendola e via Gramsci, già di massa, senza tutti i miliardi che c'ha di beni, capito? Perché in via Mondra c'è un prato intero, in via Madrid c'è un altro prato intero, a Pileghedo c'è case affittate a tutto andare, quindi problemi non ce ne sono, sempre il numero uno a Sassari. Però come ha detto Mario, praticamente lui ha fatto un business col comune per l'ampliamento del cimitero, in cambio gli hanno dato la copertura per fare questa nuova città mercato. Quando nascerà la città mercato, fare? Che lui voglia andare ai supermercati per dedicarsi a questa nuova città mercato praticamente, convoglierà tutto lì. Però per avere a chi Ugo Montenegro ne mangia una, cioè una ne mangia e sento mi guardi. No, ma ha ragione Pomponio qua. Montenegro non c'entra nulla, ha venduto tutto a questa città francese. Ciao a tutti. Grazie. fa? È da tempi di recupero, quindi da un mezzo video. No, oggi si lascia tranquillamente, solo che lo devo chiamare, perché adesso non lo sei in linea. Voglio mettere la sveglia. Ci vediamo. Ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.